perché non è possibile per me parlare con te, trovare un modo semplice per entrare nel tuo mondo. Io sono il tuo cammino, il tuo respiro, sono parte di te, di te, di te. Sono nei tuoi occhi, sono nelle tue mani, sono sulla tua bocca, che solo la mia tocca. E mi domando perché non è possibile per me parlare con te, trovare un modo facile per toccare il tuo cuore. Io sono la tua risata, il tuo respiro, sono parte di te, di te, di te. Sono nei tuoi occhi, sono nelle tue mani, sono sulla tua bocca, che solo la mia tocca. E non capisco perché non è possibile per me desiderare te, trovare un profumo per avvolgere la tua vita. Io sono il tuo letto, il tuo cuscino, sono parte di te, di te, di te. Sono nei tuoi occhi, sono nelle tue mani, sono sulla tua bocca, che solo la mia tocca. Che solo la mia tocca. Che solo la mia tocca. La mia bocca.